Allora, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, siamo ancora qui, ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori chiaramente. Tutto bene? Stai bene? Sì, è la quarta puntata. Domani allora, sarà la quinta puntata, doppia. Allora, questa è la vostra emittente preferita in questo preciso istante, si chiama Blu Radio Veneto, la state ascoltando quando sono le 21 passate da 2 minuti, oggi è giovedì 23 giugno 2011, questa è la voce di Agostino Spolaore che assieme a Maurizio Calzavara cercherà di farvi conoscere un po' di più quest'artista che ci proviene dalla provincia di Mantova, se non sbaglio, poi magari mi correggi. Va bene. Allora, vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049-875-6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms, se volete mandare qualche, che ne so, notizia, informazione, richiesta, qualcosa alla nostra cara artista presente questa sera, vi ricordo è il 346-2320-033. Il nostro streaming audio, basta andare semplicemente su il nostro sito, c'è una pagina nella home page, cioè c'è un rettangolo rosa con scritto streaming, sotto c'è una freccia piccolina nera sulla sinistra, cliccando lì sentite la vostra emittente, in questo caso Blu Radio Veneto, 24 ore su 24. Eccezionalmente adesso nei nostri live abbiamo anche aperto le webcam, quindi sì, potete anche vedere la bellezza, oltre che la bravura, sentire la bravura di quest'artista. Chi è quest'artista? Si chiama Jenny Gandolfi e ci presenta il suo nuovo, o anzi no, non tanto, il suo vecchio lavoro, che si chiama Crescere. Ciao Jenny, benvenuta. Ciao a tutti e buonasera a tutti. Non poteva venire da sola, si è fatta accompagnare da dal suo compagno, si chiama Gregory Zamboni. Ciao Gregory. Ciao a tutti. Allora, che è l'onnipresente produttore dell'album, cioè, dappertutto nel disco, c'è cioè dappertutto. Come abbiamo scritto nella presentazione. Allora, Maurizio. Sì, Jenny è una cantautrice, possiamo dire, sicuramente una cantautrice. Assolutamente. Però all'inizio suonavi il sax contralto. Io mi sono chiesto, bello una ragazza che suona il sax contralto. Bellissimo, fantastico. Era uno strumento stupendo. Poi però, vabbè, per questioni di respirazione... Hai optato per il canto. Esatto, ho optato per il canto. Che mi piace un sacco. La passione per il canto è sfrenata ed è partita dal 99 circa, quando ho iniziato a prendere le prime lezioni di canto, e sta proseguendo fino ad ora, quindi sono passati, diciamo, quasi... No, non lo diciamo quanto tempo è passato. Sono passati perché... degli anni, però. Sì, è anni di però no. di allargamento, di sperimentazione anche, possiamo dire. Così. Esatto, sì, perché sono partita dal piano bar, cover band, queste cose, per poi arrivare a scrivere brani miei. Questo è importante, perché l'album sono pezzi scritti da Jenny. Esatto. Quello è fondamentale, secondo esatto. me. Esatto, e la cosa più bella è che vengono dal cuore. Perché non tutti scrivono con il cuore, ma a volte si scrive di getto per soddisfare esigenze radiofoniche. Perché adesso c'è la mania di essere cantanti. Esatto. E gli autori sono pochi. Invece bisogna essere anche autori dei pezzi, perché hai un'altra dimensione, secondo me. Perché il cantante, bravo, può essere un bravo interprete, ma dopo un anno, due anni sparisce. Esatto. Quello è il discorso. Invece esatto, gli autori non spariscono, scrivono no, sempre. Sei d'accordo? Confermo e accendo. Hai confermato. Allora. No, comunque diciamo che la passione per il canto è una cosa bellissima che tutti possono avere, e però appunto per fortuna c'è anche qualcuno che va al di là di questa cosa e riesce a scrivere quello che vede, quello che sente dalle persone. Appunto scrive delle cose che arrivano direttamente dal cuore e che poi magari riesce a trasmettere a chi ascolta. Ecco. Certo, è importante. Poi hai fatto parecchie manifestazioni, ti sei esibita perché volevi cimentarti nel canto, in parecchie manifestazioni, di cui certo, una molto importante, che hai vinto Misano Didattico, hai vinto il premio, con Crescere. Da Crescere è partito quello il motivo di fare un disco. Poi. Esatto, perché... Sì, è nata questa esigenza perché insomma avevo un sacco di brani e poi ho detto adesso sperimentiamo un pochettino, vediamo cosa succede, e con Crescere mi è andata molto bene perché ho vinto il primo premio proprio in questo festival che si chiama Balla Bella Radio Festival nel 2008, quindi abbiamo detto boh, partiamo perché insomma la cosa potrebbe andare bene, ecco. E poi vabbè, abbiamo fatto un po' di copie e le abbiamo vendute quasi tutte. Quindi l'album ha avuto un discreto successo, ecco. Quei tempi che corrono è successo proprio con la S maiuscola. Esatto. Cosa dice Agostino? Sì, infatti. Effettivamente, non è semplice. Abbiamo detto a microfoni spenti che c'è molta difficoltà ad andare avanti a proporre pezzi tuoi, perché le cover le sanno fare tutti, meno male, gli spartiti di Ligabue e di Vasco si imparano velocemente. Tu che hai fatto le cover per un sacco di tempo, confermi, ma fare pezzi tuoi è un'altra cosa. Sì. Tutta un'altra cosa. Appunto, sì. Quello è il motivo. Quindi, il lavoro che c'è di preparazione prima e la soddisfazione di farli poi fuori dal vivo. Sì, perché quando qualcosa di tuo. Certo, perché quando fai 166 volte Alba Chiara, non so se sei qualcosa che di tuo. Ci sono cose, bravissimi musicisti, tanto di cappello, però non è cosa tua. C'è poco da fare. Diventa una routine. Diventa una routine, mentre come chiaramente un lavoro vero e proprio. Sì. Anche se musicista è un lavoro bellissimo, però fare cose tue è un'altra cosa, ripeto. Chi è Jenny Gandolfi? Allora, Jenny Gandolfi è una ragazza cresciuta in campagna che ama le cose semplici e che ama la vita, diciamo. Ama la famiglia, ama le persone buone, le persone che sanno dare qualcosa agli altri. E è una persona molto sensibile perché sta attenta a tutto quello che la circonda, diciamo, e grazie a questa sensibilità riesce a scrivere quello che poi piace alla gente, anche perché è proprio, cioè, i miei brani piacciono proprio alle persone che hanno voglia di ascoltare, perché ci sono molte persone che ascoltano superficialmente, certo. La cosa. Però, insomma, la differenza tra sentire e ascoltare, esatto. Sì, è fondamentale. Poi, esatto. L'autore deve essere, cioè deve avere una predisposizione, e la gente deve sentire che è un autore che dà qualcosa. Ripetiamo il solito discorso: puoi essere bravissimo a fare un pezzo di altri, certamente anche voi avete fatto pezzi di altri, capita. Assolutamente. Però, sì. Quando fai un pezzo tuo è un'altra dimensione, è un altro trasporto. Certamente, me. Certamente. E poi, insomma, ti accorgi di quanta superficialità c'è al giorno d'oggi, perché i ragazzi che stanno crescendo, signori, speriamo che guardino un attimo le cose con occhi diversi, certo. Perché trasmissioni televisive, tutto quanto, insomma, ci sono delle cose che deviano un pochettino dalle cose vere della vita. Realtà. Esatto, usa e getta. Esatto. E usa e getta, cioè immediatamente il successo deve arrivare in quel momento là, perché sì. Le case discografiche impongono quel successo là, tac, e poi due anni dopo, un anno dopo non te lo ricordi più di quel personaggio là, esatto. Che poveretto ha fatto una fatica per arrivare e c'è subito un altro. Esatto. Quello è il motivo. Purtroppo sì, purtroppo sì. Ho trovato il tuo disco molto intimo, in effetti. Sì. È la sì. Tua storia, la storia della tua vita, o ti sei... Allora, diciamo che è partito dalla storia della mia vita per poi sfumare nella storia della vita degli altri. Perché alcuni brani sono autobiografici, invece certo. Altri sono proprio tratti da storie di vita reali. Per esempio, Freddo nel mio cuore. Che è quella che ci ascoltiamo adesso. Esatto, che è proprio quel brano lì. Perché nasce da una persona che ho conosciuto lungo il cammino della vita, che ho frequentato per un po', e che ho avuto modo di conoscere sotto un lato freddo, diciamo. E poi ci ho ricamato sotto, diciamo, quello che poteva essere la sua vita, perché ho pensato che una persona di un certo livello, ad una certa altezza, diciamo, lavorativamente, potesse essere così fredda, ma che cosa poteva esserci intorno? Che cosa poteva, quali persone potevano circondarla? E questa è la realtà dei fatti. Certo. Allora l'ascoltiamo? Esatto, ascoltiamola. Allora, si chiama Freddo nel mio cuore, dal lavoro di Jenny Gandolfi, che si intitola Crescere. Che freddo, fa tanto freddo, non sento il calore di chi mi vuol bene. Vorrei cambiare la mia vita e dare un senso a quello che sono, ma è distante da me quel sentimento che si chiama amore. No, non so che cos'è quel sentire cose che fan battere il cuore. Dammi un po' del tuo calore, regalami gioia. Denaro non manca e sento il vuoto in fondo a me stessa. Nessuno mi vuole vicino. Importante per chi? Perché è come me. Quel sentire cose che fan battere il cuore. Dammi un po' del tuo calore, regalami gioia e dolore. Come si fa a cambiare la vita per non sentirla finita? Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Fascia oraria Blu Radio Sera fino alle 22:30 ogni sera, ovviamente questo giovedì 23 giugno 2011 con Agostino Spalore assieme a Maurizio Calzavara. Stiamo cercando di conoscere, come dicevo prima, un po' di più quest'artista mantovana. Va bene così? Sì, sì. Mantovana. Il paese è veramente qual è? Casteldaio. Allora, no, in realtà è Casale di Roncoferraro. Altrimenti il nonno poi si arrabbia. Ah, giusto, giusto. Sì, Tutti i fan che ti stanno ascoltando adesso, dopo quando torni in paese. Allora, ti porto già dei saluti. Ottimo, sì. Sì, allora c'è Diego da Napoli che ci sta ascoltando. E poi c'è Walter, che tra l'altro poi ne parleremo, avremo modo di parlare, perché lui ha un progetto molto grande, sta facendo un progetto di musica sott'acqua, quindi ne parleremo con calma quando sarà il momento. Okay. E poi c'è ancora, vediamo che non mi ricordo più dov'è, vabbè, insomma, comunque c'è la Martina, c'è Gianluca che ti stanno ascoltando. Ciao ragazzi! Ciao! e poi te lo dico perché adesso non lo trovo più. Sì. Allora, vi ricordo ancora per l'ennesima volta i nostri numeri telefonici, soprattutto l'SMS, se ci volete mandare i vostri SMS, quindi è il 346 23 20 033, mentre se ci volete raggiungere qui in studio lo 049 875 6423. Perché noi, nella tradizione di Blu Radio Sera e di Rock Wave, che è il programma gemello, quello che inizia un po' più tardi, tutti i giorni, c'è la tradizione di scavare nella musica dell'artista, e noi abbiamo scavato, noi della redazione abbiamo scavato e abbiamo scritto Io Fido nel mio cuore, che è la traccia numero 5 che abbiamo appena sentito, scava in un percorso alla Battiato, lentamente, solo all'inizio, ma lo scava, c'è un DNA, un addentellato, un piccolo collegamento, poi c'è Gregory che alla fine si dà da fare con la chitarra, un po' lisergica, e si allarga, tu gli hai consentito di allargarsi, certo. Quindi, vedi, e quello è importante. Mi ha dato carta bianca. Ti ha dato carta bianca. lui è l'arrangiatore, può avere la carta bianca. Ed è giusto, secondo me, questo pezzo, che è importante, è messo in una posizione nella scaletta significativa, perché è un po' diverso dagli altri. Sì, perché diciamo che il brano che nasce fa parte un po' della cultura musicale di un artista. Mm. Siccome io sono cresciuta in mezzo al cantautorato da De Andrea Battiato, poi vabbè, passando come tutte le cantanti attraverso Mina, Mia Martini, in company, insomma, ce ne sarebbero una spilza notevole da raccontare, insomma, praticamente in una canzone viene esaltato l'aspetto della tua cultura musicale. Poi praticamente, siccome un artista non è che magari ha tutta la conoscenza in mano e conosca tutta la musica, per fortuna ci si affida ad altre persone come Gregory, sì. Perché dove non arriva uno arriva l'altro. Certo, si compensa. Esatto, ci si compensa, perché io ho di più l'impronta italiana, lui invece ha di più l'impronta americana. Quindi mettendo insieme e mescolando queste due cose nasce un progetto interessante, diciamo, per alcuni aspetti. Variegato al caffè. Certo, ma esatto. Tu hai detto una cosa giusta, perché questo pezzo, proprio per citare questo pezzo, l'inizio io ho scritto Battiato, però poi Gregory, nel finale delle chitarre, si adombrava musicisti non prettamente italiani. E questo è un insieme. Proprio un legame totale, un connubio. Questo pezzo è proprio quello che hai detto te, praticamente la chiave di risposta. Esatto. E riguardo all'arrangiamento, io direi di chiedere un paio di cose a Gregory. Gregory, e ti dirò a cosa ti ispiri più che altro. Come hai avuto l'idea di fare questo arrangiamento, questo pezzo? Ma dunque, quando nascono i brani, generalmente Jenny mi passa il cantato con gli accordi semplici di piano, e in base alla giornata e alla luna mi gira e creo. Poi diciamo che una buona fetta di questa canzone mi è venuta fuori così. Devo ringraziare Massimiliano Titi, che ci ha dato una mano poi durante la registrazione del disco, e che abbiamo raffinato, sì, l'arrangiamento, avete tagliato certe cose, avete, esatto, sistemato altre, e la parte degli archi l'abbiamo fatta in studio io e Massimiliano, appunto, è venuta fuori come doveva essere. Ecco. Quando ci avete messo a incidere un album, Silvio? Allora, questo disco è stato un annetto, perché si fanno momenti liberi, esatto, quando c'è, col tempo che si quando ha, c'è il tempo, esatto. E comunque insomma curando abbastanza bene, insomma, cioè, le cose, se non buttare così le cose, farle di fretta poi non porta a niente, esatto. Dopo devi rifarle e quindi non c'è nessun, si perde il doppio del tempo, esattamente, e anche economicamente, e anche economicamente è un bello sforzo. Allora, io vi porto già un saluto, un sms che è arrivato, sì. Ciao VIP Gregory e ciao a Jenny dal Rebe. Grande Rebe, grande VIP, saluto, è un mio carissimo amico e musicista, anche lui, portiamo avanti nel poco tempo che ci resta altri progetti un po' progressive. Bene, bene, sì. Musica è un po'... una cosa staccata da Jenny. Sì, sì, sì, lui è il mio primo... amico musicista con cui abbiamo cominciato a suonare alla veneranda età di 15-16 anni e quindi restiamo sempre in contatto, no? Ci sono delle novità progressive, un po' strane, puro, sì. Sì. Gregory, progressive? Sì, sì, sì, proprio rock. Prog rock, quello che viene, diamo spazio all'arte. Dunque tu prova a pensare, ci siamo incontrati noi due, no? Lui totalmente l'opposto, io su una linea melodica, tranquilla, certo. No? Quasi sul lirico e tutto quanto, arriva lui, progressivo, eccetera. Cioè, sì, per quindi... darti un'idea, con Luca passiamo da King Crimson a Dream Theater, quindi siamo su quell'onda lì. Un bel salto, un bel salto. Sì, ma... Beh, è importante che ci sia anche quello. È bello ascoltare tutto. È musica variegata, deve essere così. Adesso suoniamo. Un saluto, dici? Anche da Paolo per voi. Che fantastico. Vi ciao Paolo. Ciao, ciao. Quello di prima. Suoniamo, Agostino, cosa dici? Io no, loro sì. Loro sì. Allora, possiamo fare un brano dal vivo adesso magari? Sì, sì. Allora, proponiamo un brano che fa parte dell'album, che è l'ultimo brano dell'album, che si chiama Di Notte, con un arrangiamento un po' diverso sì. Perché all'interno dell'album è molto soft, invece sì, lo è riproponiamo. È una traccia piano e voce, in sì, conclusione del disco. Sì, sì, per finire il disco, praticamente, esatto, per chiudere esatto, il discorso. Suonata da un nostro amico carissimo, che è Luigino De che Toni, salutiamo. Che è un pianista molto bravo, e lo salutiamo. E qui la riarrangiamo in versione acustico un po' più movimentata. Okay. Versione Blu Radio Verit. Ok, si intitola la canzone? Di Notte. Di notte non riesco a dormire, questo buio fa troppa paura, e la sera se vado a dormire, la luce dell'atrio è accesa. Se guardo la stanza di giorno, non vedo le ombre inquietanti, ma allora dov'è la paura? È qui che attende la sera. Questi occhi hanno lacrime che non piangono più, ed un cuore che è grande che soffre di più, ma lo sa che la vita è fatta così, di dolore, poi gioia ed amore. Io penso che il mondo sia strano, perché è fatto di troppe paure, ma la luce mi aiuta a pensare che nel buio non c'è solo male. ho trovato un amico distrutto che ha distratto la mia solitudine parlandomi della sua vita, e mi accorgo che son fortunata. Questi occhi hanno lacrime che non piangono più, ed un cuore che è grande che non soffre più. Ormai sa che la vita è fatta così, di dolore, poi gioia ed amore. Di notte ora posso dormire, ho trovato finalmente la pace, e mi accorgo che non son più sola, ma ho l'amore che mi ha aperto il cuore. Questi occhi hanno lacrime che non piangono più, ed un cuore che è grande che non soffre più. Ormai sa che la vita è fatta così, di dolore, poi gioia ed amore. Di dolore, gioia ed amore. Hai sentito? Sì, posso dire una cosa, è una ballad quasi cupa, molto bella, molto introspettiva, quasi folk, diciamo pure. Hai completamente cambiato l'atmosfera dell'album, del pezzo dall'album, e l'hai riveduta e corretta come in una ballad. È molto bella, secondo me è un percorso che potresti seguire, a mio parere. È molto bello questo pezzo qua, fatto in questa maniera. D'altronde, chitarra e voce, lo so, si rifà così. Ha una certa... Bassa un pochino, per favore. Dei rientri in cuffia. Lo so. Ancora un po', grazie. Un po'. Abbassa ecco, pure. Okay, va bene così? Ok, a posto. Perché una certa dimensione, a me è piaciuta moltissimo così. Scarna, essenziale, però ti prendi, l'hai attaccata quasi. È proprio presa, proprio il pezzo, l'hai proprio ghermito, volevi proprio farlo sentire a tutto valore, sì. a tutta potenza, nel senso, sempre nell'ambito dell'unplugged, chiaramente. Esattamente. Sì, questo è un brano che è nato comunque con una ragazza che ho incontrato, e mi ha raccontato un po' di quello che è successo nella sua vita, e è nata questa cosa. Poi, siccome a me piacciono i brani molto intimi, così insomma, ho portato il brano ad un pianista, gli ho chiesto di arrangiarmi il brano in quella maniera, nel modo dell'album. Poi abbiamo pensato, aspetta un attimo, facciamo una cosa, proviamo a fare questa versione suonata solamente col pianoforte, e poi proviamo a farne un'altra, un po' più movimentata, quasi sul rock. Sì, però questo è un movimento, sì, è un po' movimentata, però è abbastanza drammatica come espressione, come impostazione. È un movimento, sì, però io lo identifico come decadente, una ballata decadente, un po' folk, un po' inglese, sì. Possiamo dire questo. Comunque la struttura è quella classica, accanto, cioè non ci sono cambi, anche perché bisogna che la gente ascolti di più il testo che la musica, certo, che è lineare, certo. E si dà più peso, giustamente. Sì, ma io la identifico come folk, dico più inglese, italiano, folk italiano non esiste, beh, musica popolare italiana, inglese, molto inglese secondo me, l'hai cantata come un pezzo folk, tipo stile Spain, quel genere là, quelle famose cantanti tipo Maddie Pryor, non siamo a questi livelli qua di musica folk, però questa dimensione, sì, l'ho sentita così. E io buono. L'ho ascoltata così. Insomma. Molto buono, Gregory, cosa direi dici? Di sì. Si vede che le influenze ora della fine saltano sempre vengono fuori. Sempre fuori. Vengono fuori. Se sono buone influenze, ben vengano. Esattamente. Io ho scoperto che abbiamo degli amici in comune, o sì? Sbaglio. Sì, abbiamo per esempio la Miria che ti sta ascoltando e ti porta i suoi... Ciao. Ciao Miria. E poi ho scoperto che siete grandi amici di Gianluca e della Martina. Esatto. Yes. Gianluca è un collega di un'altra emittente radiofonica di Mantova, RCS. Che ogni tanto sentiamo, siamo in collaborazione, ci scambiamo anche personaggi, artisti, eccetera, eccetera. Quindi se magari ci sta ascoltando, gli mandiamo un saluto. Cosa Certamente. Dici? Certo. Ciao Gianluca, ciao Martina. È un ottimo ascoltatore di musica. Un grande ascoltatore Gianluca, un grandissimo eccesso, ascoltatore. Eccesso, devo dire. Sa un sacco di cose. Ciao Gianluca. Eccolo qua. Ciao Agostino. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Ila. Ciao. Sorpresona. Grande Gianluca. No, spettacolare la maglietta di Gregory, quella dei Transformers. Sì, ce l'ha proprio stasera. Un tocco di 80s lo devo sempre mettere. Esatto, ti pareva. Lei sei sempre quello di Toto. Sì. Martina sta bene, Gianluca? Sì, oddio, è in bagno, non so se è un po' stanca. Tralasciamo i particolari, va bene. Abbiamo sparlato ieri sera, ci siamo sentiti al telefono ieri sera e abbiamo concordato questa sorpresa da farti. Fantastico, bellissima sorpresa Gianluca, hai fatto benissimo. Sì, infatti non ci siamo sentiti con Agostino, no, ma pensa a te, no, poi come si possono fare tra virgolette i danni con Facebook, no? Facciamo gli amici, ma che ti sono partiti loro a fare... Adesso scopro da ieri, no? Geni a Blu Radio Veneto, fantastico. Fermo tutto e voglio sentire la Unplugged con Gregory, perché deve essere qualcosa di fantastico. No, comunque, veramente una bella cosa, insomma, ecco, vederti perché ti stiamo guardando dalla webcam, vederti lì, insomma, che stai realizzando l'Unplugged con Maurizio, con Agostino, che insomma sono delle bravissime persone anche, no? Una bella emittente che dà spazio sia alle rock band ma anche insomma agli artisti solisti che si vogliono proporre, insomma, ecco. Per fortuna che ci sono queste radio, per fortuna. Esatto. Anche la tua è Gianluca, mia. Anche la tua. Anche quella di Gianluca. Sì. Comunque la radio è veronese, non è mantovana. Ah, chiedo scusa, si dice Rea. C'è Radio Mille Laghi nel Mantovano, a Mantova. Mm. Che è una radio in blu anche sì, sì, sì, sì, esattamente. Chiedo scusa. Comunque bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, se sei qui Jenny, sì. È merito di Gianluca, perché è stato lui che ci ha proposto il tuo nome, che poi ci ha messo in contatto, ok, per avere il disco, eccetera, sì. Però è stato lui che ci ha fatto il tuo nome. Io lo ringrazio tantissimo per questa amicizia, perché, guarda, veramente, per fortuna ci sono radio come queste e come la tua, Gianluca, perché per fortuna, e c'è ancora gente che se ne intende. Bisogna sempre, come dice sempre anche Maurizio, no, cercare di promuovere la cultura e sono, se non facciamo così, poi le generazioni future finiranno come quelli di X Factor, no, che sono lì. Esatto, vabbè. È quello. Non volevamo è dirlo. Allora, come avete certamente capito, Gianluca è un mostro sacro, sa tutto e di più di tutti quanti gli artisti, soprattutto nel campo della musica rock. Già ve lo diamo, Gianluca, lo possiamo già dire che in agosto faremo qualcosa insieme? Certo. Una serata di musica rock? Sì, e speriamo di portare anche uno special guest, ci sto lavorando. Va bene. Sia anche lui d'accordo, insomma, dovrebbe venire anche a Padova a fare altre cose, per cui insomma, ecco, speriamo ci sia, insomma, ecco. Passa da Jenny, da Gregory, magari si aggregano anche loro. Sì, dove, quando, scusa? quando verrai giù in agosto? Vabbè, se vogliono venire ben volentieri, insomma, ecco. Tu messaggia che noi rispondiamo. Sai che insomma loro sono diventati genitori di un bambino da alcuni mesi, insomma, cioè, ecco. Chi si chiama il bambino? Stupendo bambino, Lorenzo. Che si chiama Lorenzo. Lorenzo. Ecco. Va bene. Gianluca, noi ti ringraziamo, lasciamo lo spazio a Jenny, ovviamente la musica, sì, di Greg. Sì, un'ultimissima cosa che non ha detto Jenny. Io sono andato al primo concerto. Ah, è vero, Jenny, sì. Da solista, che ha presentato il suo disco Crescere a Libiola vicino a Ostiglia, no? Sì. E niente, anch'io ho visto un po' quello che è stato il suo percorso artistico musicale, la conosco da parecchio tempo, da ancora prima che incidesse il suo disco, insomma, ecco, sì. Quel che posso dire è che Jenny magari ha investito veramente nella sua formazione musicale, è veramente un insegnamento a molti altri ragazzi che, o a ragazze che vogliono intraprendere la strada del canto. Lei veramente è una che è andata, ha cominciato a fare corsi di canto, ha fatto tante cose e in particolar modo ha avuto la possibilità di conoscere attraverso la sua maestra di canto niente meno che il papà di Loredana Bertè, di Mia Martini, insomma, perché esatto. Lei sapete che ha questo faro musicale che è Mia Martini, che è la sua ispirazione anche per il suo disco, insomma. Sì, esattamente, è proprio così. Esatto, quindi se ve l'ha confermato lei... È proprio così. Al 100% è così. Sì. È proprio così, insomma. Magari ne parleremo tra poco, magari anche di questa cosa. Certamente, quindi siamo sempre in ascolto noi. Bene, okay. Bene Gianluca. Gianluca, dai un bacio a Martina anche da parte mia. Anche da parte nostra, eh. Certo. E noi, io e te, ci sentiamo presto. Certo. Con un bel puntatone Gianluca sul rock che noi conosciamo io e te e qualche certamente, altro. Facciamo tre orette di cose nostre. L'atmosfera nello studio sarà sicuramente calda. Molto calda. Molto calda. Okay. Va bene Gianluca, sentiamo allora. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Grazie, ciao, grazie della disponibilità. Ciao, ciao. Niente, figurati, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, contenta? Molto, è stata una bellissima sorpresa. Diciamo, ti dicevo prima, ci siamo accordati ieri sera e ti facciamo questa sorpresa a Jenny. Avete fatto benissimo. È Gianluca un personaggio che sa tutto, è un mostro sacro, come ha detto giustamente Agostino. Riesce a scavare nel musicista da alla Z praticamente tutto il suo curriculum. È un ricercatore, è un ricercatore sì, assoluto. È strepitoso, ma... perché lui sa veramente tutto, cioè, ha una cultura che è veramente qualcosa di incredibile. Pazzesco, sa tutto. Cioè, ti presenta l'artista da come ha cominciato fino a finito musicalmente o continua musicalmente. Tutte le meandri più sconosciute, ed è bello per quello. Sa delle cose che tutti sappiamo, certe cose degli artisti, però non sappiamo anche il risvolto di certe cose. E Gianluca lo sa, va a fondo. E anche tu comunque non sei da meno. Sì, . Ma Gianluca è decisamente un altro livello rispetto al mio. Va bene, adesso ascoltiamo il livello di Jenny, però. Ok, ci fai ascoltare qualcosa. Jenny, appunto, ci fai ascoltare qualcosa dal vivo o dal disco? Cosa no, dal disco, adesso. Allora, il brano che andremo ad ascoltare si chiama Il palcoscenico. E anche questo è nato da una riflessione personale nel momento in cui ci si trova su un palco. Le luci, i riflettori, poi quando si spengono che cosa succede? Bene, lo sentiamo perché è un arrangiamento molto particolare e poi ne parliamo, che è molto interessante. Là sul palcoscenico sei l'uomo più forte, hai il coraggio di un leone, sei un gigante. Dopo ogni spettacolo esci dalla scena ed entri nella vita, quella vera, coi riflettori puntati addosso, vedi il niente, queste luci accecanti ti chiudono il cuore, ma quando torni laggiù tra la gente, se non hai amici ed amore sei niente, diventi un povero bimbo innocente con tanto bisogno di essere amato, e mentre sei lì che cerchi amore ti accorgi di quanto è grande il dolore di chi si sente solo, di chi non è fortunato come te, come te. Sembra così stupido, non ci crederesti, ma se chi ami non è lì, senti il vuoto. La forza che c'è in te, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sì, sentiamo, abbiamo sentito Palcoscenico, che ripeto, a mio parere l'album è il pezzo più importante del disco, più importante come arrangiamento, come testo, come dimensione, come profondità. L'arrangiamento, abbiamo l'arrangiatore qua davanti, voglio sapere perché hai fatto anche i stop and go con la batteria. Adesso vieni avanti al microfono e me lo dici. Perché mi veniva di farli così, semplicemente... È difficile questo pezzo, è complesso, ha un sacco di variazioni. Ma... allora, la cosa che... Ma complesso viene... senso positivo. No, no, ma probabilmente il discorso della programmazione delle batterie così, avendo studiato batterie... Ma quanti strumenti suoni te? Io ho fatto batteria e chitarra, sono i miei... Ho iniziato con la batteria, poi con Luca, che mi ha mandato un messaggio prima, ci siamo messi adesso, come lui già suonava la chitarra e cantava così, aveva già un gruppettino, mi sono inserito e ho studiato... più approfonditamente la chitarra. Comunque, insomma, gli studi di batteria che si fanno da pischelli, non... comunque la musica quando si studia in età giovane, tra l'altro, ti resta dentro tutto, che si apprende molto più facilmente. È verissimo questo. Allora, l'arrangiamento è stato così evidenziato, il pezzo era molto importante, Jenny ci mette veramente molta forza, e io ho scritto nella recensione che è un pezzo quasi sinfonico in alcuni momenti, molto pomposo musicalmente, che dà un certo spazio, un certo vigore, però è raffinato anche, non è semplice, molto raffinato, determinati input che hai messo in determinati momenti, perché doveva essere così, probabilmente è tanto istinto. Ah, ok. Quindi non c'è niente di preparato in questo pezzo. No, questo qua tra l'altro è stato fatto in presa diretta, brevissimo tempo, come dicevo, lei mi ha dato la linea di piano e voce e via, e gli ho messo sotto quello che secondo me ci mancava. Addirittura all'inizio non avevo neanche previsto il basso, poi dopo, insomma, durante l'arrangiamento mancava una frequenza, quindi comunque suonava già anche senza quello, certo, quindi certo. Quando senti che suona già con poca roba, vuol dire che è la vuol strada che vale, giusta. Vale. Poi mi dicevi una cosa a proposito di questo pezzo, Jenny, dicevi prima. Sì, questo brano è rientrato tra... abbiamo partecipato a un concorso con questo brano, che è il Bianca da Ponte, si chiama, Festival per le cantautrici italiane, e questo brano si è classificato tra i primi 20. Quindi è molto positivo. Esatto, perché facendo conto che c'erano cantautrici di tutta Italia, direi che arrivare... È un ottimo risultato. Assolutamente. Quindi vuol dire che il brano era valido già in partenza. Sì, esatto, esatto. Poi la cosa bella è stata che il brano è stato veramente ascoltato, perché a casa mi è arrivato il diplomino, diciamo, e poi mi sono arrivati i commenti, le critiche proprio in senso positivo riguardo al brano. Degli addetti lavori. E quindi, insomma, sono rimasta contentissima, ma proprio contentissima. Che di solito nei concorsi, mi permetto di dire, non avviene, ecco. O non in tutti, diciamo, dai. No, comunque io sono affezionatissima a questo brano. E dal vivo come lo fate? Adesso che cioè, con la band lo fate? Sì, lo facciamo tutto con la band. Con i soliti elementi, chitarra, basso, batteria. Amici, personaggi, musicisti. Esatto. Che potete salutare, se volete. Sì, sì, sì. Tutti. Vabbè, a parte che questo CD è ricco di collaborazioni. Esatto. Quindi... Qui possiamo salutare da Mario Marcassa, che è conosciuto abbastanza in questa zona. Sì, anche. A Enrico Mancini, e Mirko Tagliasacchi, sono tutti i vari bassisti, Marco Gennari, che hanno suonato in più riprese i vari... Cristian Montagnani. E Cristian Montagnani, che ha fatto le chitarre di un brano e... Che ci accompagna poi dal gruppo, vivo, insomma. Sì. Esatto. Benissimo. Sono fior fior di musicisti certamente. E amici, quindi li saluto se ci ascoltano. Cioè. Sicuramente, via internet o in un'altra maniera, insomma, qualcosa sicuramente sono all'ascolto. A proposito dal vivo, visto che c'è Gregory che c'ha la mano sulla chitarra, sì, è lì pronto per suonare, certo. La Jenny invece si sta alzando. Io mi preparo. E cosa ci fai ascoltare adesso, Jenny? Allora, il brano che vi facciamo sentire si intitola Crescere. È quello che dà il titolo al disco, se esatto, è proprio quello. Il singolo praticamente. Il singolo, esatto, ed è quello che ha vinto il festival a Misano Adriatico. Ha dato il via a tutto il progetto. Ha dato forza di partire. Esattamente. Ok. Thank you. rivedo quel tuo sorriso, riflesso in quello sguardo saggio che sa già come va a finire ogni storia. E quanto li odiavo io, quei consigli che non accettavo e che non ho mai voluto seguire. Ero sola, l'arroganza parlava per me, così dura e fragile, con quanta prepotenza mi accendevo e di capire tutto mi illudevo. Mi sentivo forte, non sapevo cos'era l'umiltà e la pazienza in quella gioventù che fa sognare, che poi la vita insegna a ragionare. Quanto si è bruciata la mia pelle, io che non sapevo respirare. Fa male da morire, voltarsi per capire di aver sbagliato, sai, anche a pensare. Io vorrei tornare indietro per cancellare tutto, non ti ho mai voluto ascoltare e nemmeno seguire. L'arroganza parlava per me, così dura e fragile, con quanta prepotenza mi accendevo e di capire tutto mi illudevo. Mi sentivo forte, non sapevo cos'era l'umiltà e la pazienza in quella gioventù che fa sognare, che poi la vita insegna a ragionare. Quanto si è bruciata la mia pelle, io che non sapevo respirare. La pioggia cade qua, e quanta ancora ne farà, ma più la vita va, e più fa me. Quanta prepotenza mi accendevo e di capire tutto mi illudevo. Mi sentivo forte, non sapevo cos'era l'umiltà e la pazienza in quella gioventù che fa sognare, che poi la vita insegna a ragionare. Quanto si è bruciata la mia pelle, io che non sapevo respirare. Sì, ho aspettato l'ultimo tocco di Gregory, perché era giusto, mi sembrava giusto. Dalla chitarra effettata Made in USA, che all'inizio dava il tocco al disco, hai cambiato chitarra, chiaramente sonorità, chitarra proprio unplugged, molto, molto schematica, e hai valorizzato l'armonia e la voce di Jenny. Era come giusto, penso sia giusto. È giusto che sia che così, sia. Chiaramente. Questo è un pezzo molto accattivante, è un singolo ideale, e prende subito perché è una melodia che entra immediatamente nel circolo. Il ritornello è vincente. L'idea di questo ritornello vincente come l'hai avuto, Jenny? Sempre istinto. Istinto è sì, stato. Sì, perché io cerco di non copiare mai gli altri. Più che altro, sì, nasce sempre, cioè magari si sente di più l'influenza di uno rispetto all'altro. Però diciamo che cercando di non copiare mai, ma essendo una cosa che nasce proprio dall'istinto, diciamo che è una cosa naturale, non si può spiegare come nasce, perché ad esempio succede che oggi ho voglia di scrivere, quindi sì, devo scrivere. Devi scrivere un pezzo, assolutamente. Esatto, perché viene da esperienze di vita, certo, viene da quello che si fa. Bisogna captare immediatamente e non lasciar perdere, sì, vero? Sì, tante volte mi viene l'ispirazione di notte, quindi mi fermo, classico, non dormo, certo, assolutamente. Finché non l'ho scritta devo stare sveglia, devo andare giù a scrivere. E anche lui? Ah, qualche volta sì, sì. Qualche altre volta, volte sì, mi sveglio io e lei dorme. E si arrabbia. Beh, diciamo che la notte porta consiglio, nel senso che poi anche spesso e volentieri tanti artisti che sono passati in questa emittente dicono che poi di notte sono veramente molto più ispirati. Sì, anche perché, scusa un attimo, ma con un bambino e la vita frenetica che c'è, forse l'unico momento di tranquillità è la notte. È la notte. Ci vorrebbe la giornata allora non di 24 ore, ma molto di più. Una quarantina di ore andrebbero. Poi tanto non si riposerebbe comunque. No, certo, certo. Jenny, vogliamo ricordare alcune cose tecniche, sì, cioè dove si trova il disco, il tuo sito, e ok, eccetera, eccetera. Allora, il mio disco lo si può trovare su iTunes, Gregory, aiutami. Perché qui... i music, altri megastore digitali, mentre le copie ai concerti fisiche le vendiamo durante i concerti, insomma. Mm. E se qualcuno vi contatta invece direttamente a casa? Glielo spediamo... via posta. Via posta, insomma, ci contatta via email, poi certo, anche tranquillamente telefonicamente ci diamo i contatti, insomma, gli arriva in una maniera, certo, o nell'altra gli arriva. Ricordiamo il tuo sito. Sì, il mio sito è www.jennygandolfi.com con la J e la I normale in fondo. E poi mi trovate anche su YouTube, comunque entrate nel sito web www.jennygandolfi.com, c'è il mio MySpace e da lì entrate nel mio YouTube, giusto Gregory? Tutti i link, comunque basta cercare su Google e trovate, vien fuori, e trovate c'è la Jenny... parecchi click fortunatamente, vien fuori subito come nome. E poi su Facebook naturalmente, perché è un ottimo canale Facebook. Lì sei in diverse facce su YouTube. Sì. Sì, perché lì c'è un po' la mia crescita. Certo, perché hai fatto di tutto, insomma. Sì, un po' di tutto. Sono stata anche su Sky, ho fatto un genere completamente disco diverso music da questo. Che adesso riguardandomi dico, cavoli, quanto mi sono divertita là, però... Però adesso è saltata fuori la mia vera identità, insomma. Certo. Diciamo che sono partita un po' a fare... La turnista qua. Sì, ecco. Ah. Ecco, la turnista, facendo canzoni di altri, da interprete, certo, per poi scoprire una strada diversa, che è quella del cantautorato, insomma. Certo. Gianluca citava Mia Martini, che era un tuo punto, sì, di riferimento. Sì, perché io faccio parte dei ragazzi di Mimì. Esatto, che, volevo arrivare a quello. Esatto, che sono l'unica organizzazione in Italia non a scopo di lucro che ha... l'intenzione di portare la voce di Mia Martini nei vari teatri italiani, diciamo. È un progetto molto grande, nel senso che se ne fa uno ogni tanto perché comporta parecchie spese, musicisti, preparazione musicale notevole, perché anche la scelta dei musicisti non sembra, ma è notevole, perché non tutti riescono a suonare quel genere. Perché la musica melodica italiana può apparire così a primo acchito semplice da suonare per un musicista, in realtà è totalmente il contrario. Ah, ho capito. È molto molto difficile accompagnare una voce. Infatti io e Gregory abbiamo avuto qualche discussione all'inizio, poi ci siamo capiti. Una cosa, sì. Esatto. Comunque, ritornando al discorso di Mia Martini, diciamo che è stata fonte di ispirazione in parecchie cose, diciamo, all'interno delle mie canzoni. Quale periodo di Mia Martini? Il periodo di... potrebbe essere il periodo di Minuetto, il periodo di... Ma poi, a parte il fatto che ci sono un sacco di canzoni che mi hanno ispirato, anche perché ricordano un po' le storie amare, no? Certo, che tutti passano, che tutti trascorrono, quindi... Adesso vi cito una canzone che a me piace da morire, poi magari mi ha influenzato, cantala, anche sul modo, cantala, di scrivere. Cantala a cappella. Se mi sfiori con la luna, cado spenta verso te, le tue braccia azzurri cieli. Per volare, per capire, per soffrire, per dimenticare. Se mi sfiori come il vento, resto a vivere. e poi avanti, e poi insomma. Bravissima, bravissima. Brava che sei. Bravissima, sei stato bravissimo. Io amo particolarmente i miei Martini, il primo disco. E nel primo disco c'è Into White, che è un pezzo di Cat Stevens. E poi aveva fatto Padre davvero, aveva fatto le cose meravigliose. Fantastico. Quello, un disco molto era oltre la collina. Esatto. Ho il mitico vinile di mio papà, tengo gelosamente. Io ho il vinile e il CD. Into White è un pezzo meraviglioso, due minuti scarsi di Stevens, che lei ha dato a rifare, perché lei era brava a riprendere i pezzi di grandi musicisti, ma canzoni minori, e lei le dava uno sviluppo spaventoso. Sì. Mi viene in mente un'idea da fare, una serata con tutto di Mia Martini, la faresti con noi? Certamente, volentieri, volentierissimo, quando volete. Facciamo una, cosa dici Maurizio, si può fare una serata dedicata ma certamente a Mia è stato un personaggio fantastico. Ci metteremo d'accordo. Sì, che purtroppo ha avuto certi partiti contro per una sciocchezza assoluta, la considerava uno che portava sfortuna ed era assolutamente non vero, creata ad hoc da un giornalista all'epoca. Peccato, era un musicista straordinario e quella macchia gli è sempre rimasta dentro. Sì, ma vabbè, però diciamo che per gli appassionati questa cosa viene sorvolata, certo, perché è superata al 100%. Assolutamente, anche perché se uno è un po' intelligente assolutamente trascura la faccenda della sfortuna o fortuna, perché secondo me non esistono. No, comunque insomma, era grande e basta, grande, esatto. Ma grandissima, esatto. Poteva fare delle cose meravigliose, esatto. Le ha fatte. Purtroppo forse è andata così, in quel momento è andata così. Basta. Perché i grandi autori, tornando, che gli hanno scritto praticamente tutti quanti correvano per scrivere per lei, perché lei creava i pezzi veramente. Ah sì. Un gradino, diciamo, sopra. Sì, decisamente. E quindi cosa fai con questa? Beh, ad esempio, niente, praticamente io faccio la cantante solista. Saremo una decina di ragazze che fanno parte del laboratorio di Mimì, che è appunto questo laboratorio. E niente, cantiamo le canzoni di Mia Martini. Le portate in giro nei teatri. Esatto, facciamo questo. Ci divertiamo un sacco con i musicisti dal vivo. Sempre musicisti dal vivo. Esatto. Che bello. Sì, sì. Perché poi vengono coinvolte un sacco di persone. La prossima data? La sai? Magari. No, non c'è, magari. Ce n'era una in ballo, ma adesso vedremo. Casomai faccialo sapere, che ti facciamo un po' di pubblicità. Volentieri. E invece il prossimo concerto tuo? Prossimo concerto mio è il 30 settembre. Questo è un concerto fatto proprio sul mio album e qualche canzone nuova che andrà sul prossimo. Dove interpreteremo, oltre che i miei brani, anche brani cover. Già fatti, insomma, strafamosi di Mia Martini, appunto, Mina, Gianna Nannini, Mannoia, per esempio, mescolati un pochettino ai nostri, perché così la gente ha un ascolto più semplice del concerto. E adesso io farei ascoltare un altro brano dei miei che si ispira un pochettino a... Canti dal vivo? No, dall'album. Ah, ok. Che si ispira un pochettino a Mia Martini, diciamo. Non fa parte della storia triste, ma fa parte di una rinascita. Nel senso che la vita va presa in un modo e poi va trasformata. Certo, certo. Il brano è Ma che senso ha? Stasera, prima di dormire, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 22 passate da 5 minuti, oggi è giovedì 23 giugno 2011, questa è la voce di Agostino Spolore assieme a Maurizio Calzavara, stiamo scoprendo Jenny Gandolfi che si sta facendo ascoltare il suo vecchio disco, ma adesso giriamo pagina, voltiamo la pagina di questo libro di 2 anni fa, giusto? Sì, esatto, e passiamo al nuovo album. Che è ancora in opera, diciamo. È in cantiere. Quindi è una piccola esclusiva questa. Sì, sì. E adesso vi facciamo ascoltare 2 brani subito immediatamente uno di seguito all'altro che sono stati filmati, ripresi tra l'altro, e sono su YouTube. Abbiamo fatto un video un po' carino, insomma, andate a vederlo. DVD di presentazione. E si chiamano queste due allora, canzoni? Sono Voglia di correre e Terra e mare. Sono canzoni, diciamo, molto allegre come stile, diciamo, e sono frutto di una collaborazione con il batterista del gruppo, che è Luca Modena, che salutiamo. Ciao Luca. E lui fortunatamente ogni tanto parte, va in America a suonare e porta a casa qualcosa, un po' di esperienza, e quindi poi ci passa un po' di robe, ci lavoriamo su e vengono fuori queste qua che vi facciamo sentire. Allora ne fate 2 di seguito? Esatto. Sì. Allora il microfono è vostro, via. Sì o no, non lo so, perché ora dovrò dimenticare te. Su e giù, giù e su, lo capisci anche tu, è un'altalena che si ferma quando lo decidi tu. Ora voglio scendere, partirò, me ne andrò in un posto che tu non puoi raggiungere. Porterò solo me, voglia di volar via, un bagaglio semplice. Lascerò il mio passato e sarò libera di vincere. Di qua, di là, ogni giorno sarà una nuova emozione che vivrà. Sarà nuova alba per me, vissuta in libertà senza di te. Riderò, piangerò, darò sfogo alla mia voglia di correre. Cercherò una bugia se la mia fantasia per sbaglio pensa a te. Lascerò il mio passato e sarò libera di vincere. Di qua, di là, ogni giorno sarà una nuova emozione che vivrà. Sarà nuova alba per me, vissuta in libertà senza di te. Questa vita aspetta me. Di qua, di là, ogni giorno sarà una nuova emozione che vivrà. Sarà nuova alba per me, vissuta in libertà senza di te. Senza di te. Di qua, di là. Ecco, questo era un brano sempliciotto, ma carino, insomma. E adesso abbiamo il nostro Terra e Mare. Ok. Penso e scrivo ciò che sei per me, piacevolmente fragile. Vorrei che il vento ti portasse qui. Chiudo gli occhi e sogno il nostro film. Sei terra e mare per me, tu accorgo che son già le tre. Dovrei studiare, ma che faccio qui? Prendo il treno e corro a stringerti. Sei terra e mare per me, tu sei come sangue nelle vene. Volo con te, tu sei l'aria nel mio cielo, amore. Queste stelle danzano per te. Sei terra. Fatto anche la finale, bello, bello. Hai fatto il finale con una schitarrata, possiamo dire. Schitarrata. Due pezzi inediti, assolutamente inediti. Quante volte li avete provati questi pezzi qua? Quante volte li avete suonati? Li abbiamo fatti un paio di volte dal vivo. Una cosa quasi, quasi inedita, sì, insomma. Sì, abbiamo... sicuramente inedita per una radio. Quella, sì, sì, sì, sicuramente. Assolutamente, sì. Assolutamente. È la prima in assoluta. E fonte del live, tutti e due, il batterista, cioè il batterista si gli ha contribuito. Sì, sì, ci ha passato una musichetta. E effettivamente il secondo era più americano del primo, secondo il mio parere. Non so se siete d'accordo. Sì, sì, sicuramente. Il primo no, il primo era un po' di, non era americano come impostazione, invece il secondo era proprio americano come impostazione. E può essere un singolo bellissimo, il secondo pezzo. Lo sento così, dopo chiaramente bisogna vedere l'arrangiamento del qui l'onnipresente maestro come lo farà. Sul roccheggiante. Sul roccheggiante, sì, cioè sì. Ci metterai un po' di vigore, certo, praticamente. Certo. Ecco. Si okay. Sente la chitarra distorta. Esattamente. Questo fa parte di un DVD anche, se non sbaglio. Sì, o no? Sì, sì, entrambe le canzoni fanno parte di questo DVD che dicevo prima, che si può trovare su YouTube. Stiamo caricando i video in questi giorni. Questi giorni praticamente. È roba fresca. Benissimo. Molto fresca, freschissima, direi. E niente, io direi di passare al prossimo brano. Già, subito. Subito, già, così. Sei caldissima, sì. Che vuoi cantare. Perché sì, perché adesso ci sono dei brani che proprio non abbiamo mai fatto fuori. Ah, perfetto. Questi sono una proprio inediti. Primizia. Quindi avete provati di sera. Questo è un assaggio. No, li abbiamo provati già, sì. In realtà. Un po' di tempo fa. Un po' di tempo però fa. Un assaggio da. Quando l'abbiamo composto. Dopo. Okay. Andiamo in radio, Mai, facciamolo sentire. Beh, certo, è una cosa bella. Come cosa ci fate ascoltare allora? Allora, questa si chiama Dimmi Perché. Ok. Dimmi perché stasera vuoi parlare ancora con me? Non ho più nulla da dirti, non c'è più nulla da fare con te. Ormai non so più chi sei. Quello che ora cerchi non lo troverò da me. Smetti di sognare, stavolta io non cederò. Non ti preoccupare, tanto me la caverò. Riuscirò a dimenticare ogni cosa di noi. Delle tue promesse, cosa me ne farò? Quando nella vita indietro io mi volterò, non so. Dimmi perché fa male, sai, parlare ancora di te, guardare in faccia la gente, cambiare strada per sempre, per me impossibile. E sento ancora il calore che mi dai, anche se non vorrei. quanto male ancora fai. Non ti preoccupare, tanto me la caverò. Riuscirò a dimenticare ogni cosa di noi. Delle tue promesse, cosa me ne farò? Quando nella vita indietro io mi volterò, però sento nel mio cuore il calore che mi dai. Sopra parole, muri e case, tanta la forza che hai. La voglia di sognare quanto è grande non lo sai, ma sono certa che nessuno sa quanto ti vorrei amare. Che bella questa. Molto bella, sì, veramente. Proprio una canzone pop questa, pop, qua, 100%. Sì. Mi amo popizzata. Popizzata, beh. Decisamente sì, può essere, è impostata nel senso pop. Poi chiaramente l'arrangiamento là leggermente sarà una piccola variazione, però è fondamentalmente un pezzo pop, sicuramente. Sì, sì. E anche questo brano è nato un po' per esigenze radiofoniche, un po' per mescolando un pochettino sempre le esperienze di vita, anche magari cose sentite, un'amica ti racconta. Poi recepisci, scrivi, eccetera. Esatto. E ora vorrei far ascoltare un brano che fa parte sempre dell'album. Sì. E farà DJ, hai visto? Farà DJ. Sì, infatti. DJ. A fretta perché tra un po' si chiude. Ma questa sarebbe l'ultima canzone, scusa. No, questa non è l'ultima. No, non è l'ultima. Allora. Era per staccare un attimino. No, facciamo un pezzo dal disco. Ah, ok. Sì. Che brano hai scelto, Jenny? Sì. Si chiama Ora non c'è speranza per me. Ed è un brano, anche questo, questo è un brano più personale, che è stato il brano che ha fatto incontrare me e Gregory. Ah, benissimo. Ah, okay. È stato il brano che... E allora sì, bisogna farlo ascoltare. Poi faremo i raffronti tra le precedenti e le new entry. Esatto. E spieghiamo il perché dei cambiamenti di rotta. Ok, va bene. Allora facciamo ascoltare questa e poi ci salutiamo, va bene? Sì, ok. Eccomi qui, ora io e me, quando ieri con te avrei fatto progetti. Non mi consola un cielo di stelle e nemmeno il ricordo di una bella vacanza. E più mi guardo dentro e più vedo delusione. Con le mie illusioni il tempo muore. Eccomi qui, ora non c'è speranza. Passato, ma mi spieghi perché il ricordo di te tormenta i miei sogni. Come potrò scordarti? Non so, il mio cuore no, non ne vuoi sapere. Guardo dentro e più vedo delusione. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora Jenny, c'è una cantante che ha fatto parte di un concorso qui che si è concluso il 5 giugno a Padova, si chiama Chiara Vezzani, sì. Ti saluta, ti sta ascoltando. Ciao. Dalla provincia di Parma. Ciao. E ti fa i complimenti, dice che sei bravissima. Grazie, grazie mille. Detto da un'altra cantante, fantastico. Lei fa un po' jazz. Meglio ancora. e poi anche da parte di Marika un saluto. Grazie, vi saluto. Ecco. Allora Jenny, siamo arrivati alla conclusione. Sì, e allora però mi ci devi spiegare cos'è questa canzone che vi siete fatti conoscere, che vi ha fatti conoscere. Ah sì sì, questa ora non c'è speranza per me, sì. Diceva Gregory che c'è un particolare da scoprire. Adesso vi faccio ridere, questa canzone l'avevo scritta per uno. Ecco. Poi arriva Gregory. Ecco. E gli faccio fare l'arrangiamento. e poi è nato l'amore. Ecco. Tra me e lui. Magia della musica, no? Magia della musica, cosa vuoi che ti dica? Musica... E quell'altro è stato proprio cancellato, sciacquato via direttamente. Va bene, Jenny, sì. Ricordiamo ancora i tuoi link e tutte le tue notizie. Sì, allora, il mio sito internet è www.jennygandolfi.com. Poi mi potete trovare su Facebook, cercate Jenny Gandolfi. Poi su YouTube... Semmai fate una cosa che è molto più semplice, andate su Google e cliccate Jenny Gandolfi e poi salta fuori una spilza di cose, voi cliccate su uno o sull'altro link, prima o poi arrivate a dove volete arrivare. I miei album, il mio CD lo trovate su iTunes e Music e altri megastore. E i vostri concerti. I nostri concerti. Esatto. Fisicamente ai vostri concerti. Esatto. Vi ricordo... Il 30 settembre. Proprio quello. Il 30 settembre al Teatro Lux di Quistello, Mantova. Presenteremo di nuovo l'album Crescere con qualche brano inedito nuovo. Che avete presentato qua stasera forse? Tra sì. Questi, sì. E il disco nuovo quando uscirà più o meno? L'anno prossimo. Perché ci vuole un po' di tempo per... Se tutto va bene, l'anno prossimo. Ti aspettiamo qui? Volentierissimo, guarda, io sono già qui. Ce lo vieni a presentare in anteprima? Va bene. Un'esclusiva? Va bene, dai? Certamente. Okay. Apro una piccola parentesi, sì? Jenny, per te. Chiara dice, sì? Non si ricorderà di me, ma avevamo fatto uno spettacolo di Radio Pico insieme. È cresciuta tantissimo, le faccio tanti in bocca al lupo. Grazie, Chiara? Chiara Vezzani, non ti ricordi? Sì, mi ricordo il cognome, mi ricordo. Ma era una cantante o? È una cantante. È una cantante? È una cantante. Sì, mi ricordo il cognome, devo vederla, però mi ricordo il cognome. Poi magari ti faccio della foto. Sì, poi. Sì, sì. Ti saluto, Chiara. Scusami se non mi ricordo in questo momento il tuo viso, ma appena vedo la foto sicuramente mi ricorderò di te. D'accordo. Allora, Chiara, ciao da parte di Jenny. Jenny, grazie ancora. Grazie di essere anche venuta a voi. Questa sera qui, ci ha fatto piacere averti, speriamo per il prossimo disco, ovviamente. Sì, sì, assolutamente. Grazie anche a Gregory. Grazie a voi. Ci sentiamo presto, tanto sì. Io e te. Maurizio, io do l'appuntamento a giovedì della settimana sì, prossima. Sì, esattamente, il nostro direttore artistico è già arrivato. Prenderà il tuo posto fra qualche minuto. Domani un appuntamento imperdibile, ore 21 con Flavio Bilatto, il grande Aldo Tagliapietra delle Orme. Delle Orme. E poi gli Heidi, che è un gruppo rock molto interessante, dopo con Marco Borgato. Io invece vi do l'appuntamento a giovedì della settimana prossima alle ore 21, sempre qui, con Amélie, che ci viene a presentare il suo disco che è uscito da pochi mesi. Cosa ci fai ascoltare adesso, Jenny? È un brano che si intitola Basta. Basta allora. Basta. Chiudiamo. L'abbiamo fatto a pennello. Così chiudiamo in bellezza e poi, okay. Poi basta. Buonasera da Agostino e da Maurizio Cazzavara, grazie. Ciao a tutti. Sei mai stato qui, dentro la mia testa? Ci hai provato ma non ci sei mai riuscito. E adesso credo di non aver capito. Se è vero ciò che vedo, il nostro amore appassito. Ma non so se ora mi basta ripensare un tempo, quando il mondo era più bello, per amarti ancora. ma non so se ora mi basta il tuo sorriso per volerti ancora. E basta, adesso basta, non voglio più mentirmi ancora. E basta, basta questa vita per vivere con te, per vivere con te. Na na na na na, na. Ti ricordi qui dietro questa via? Ti ho donato un giorno la mia malinconia e adesso credo di aver capito tutto, di averti dato il meglio anche se non ci hai mai creduto. Ma non so se ora mi basta ripensare un tempo quando il mondo era più bello per amarti ancora. Ma non so se ora mi basta il tuo sorriso per volerti ancora. E basta, adesso basta, non voglio più mentirmi ancora. E basta, basta questa vita per vivere con te, per vivere con te. Na na na na na na na na na na na na. E basta, adesso basta, non voglio più mentirmi ancora. Ciao a tutti. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.